Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Partiremo da strani flash percepiti dagli astronauti e finiremo in uno stadio di calcio. Questo sarà Mebius di oggi. Benvenuti e ascoltiamo insieme i titoli della puntata. I flash luminosi percepiti dagli astronauti sono un fenomeno noto da tempo, ma una nuova ricerca ne ha rivelato definitivamente l'origine. Una convention a Londra dedicata al giornalismo scientifico. Anche la redazione di Mebius ha partecipato all'evento. Elio e le storie tese sono apparsi alla mostra su Darwin raccontando i loro consigli pratici per evoluzionisti spaesati, una conferenza spettacolo sulla storia dell'evoluzione. Scoperto un pezzo mancante del puzzle chimico responsabile del buco dell'ozono. La Società Europea di Fisica premia il ricercatore italiano che ha analizzato l'inchiostro usato da Galileo, stabilendo le date precise dei suoi scritti. Gli stadi, durante i grandi concerti, vibrano come le corde degli strumenti musicali. È stato analizzato anche San Siro. Vado subito in apertura a Boston da Paola Rebusco. Ciao Paola. Ciao, buonasera. La nostra corrispondente, questa volta niente Skype, ti trovo a casa, quindi telefonata normale per parlare di qualcosa che proprio normale non è, sono i flash percepiti dagli astronauti. Non sono stranissimi perché questi flash, queste percezioni sono note abbastanza da tempo. Da quando, Paola? Beh, in teoria sono previsti dagli anni 50, in pratica sono stati visti la prima volta con la prima missione sulla Luna, quindi nel 69. Tanti astronauti quindi da quel momento hanno incominciato a raccontare di proprio percezioni visive molto forti, però non di luce, però non si tratta di luce che arriva, entra dentro la navicella spaziale, no? Non si tratta di luce, si tratta di raggi cosmici, ovvero di particelle molto accelerate, molto energetiche, che colpiscono il sistema nervoso e vengono percepite dal sistema nervoso centrale come dei flash di luce molto intensi. Certo. Questo avviene sia che gli occhi siano chiusi, sia che siano aperti. Sì, noi sappiamo che il sistema nervoso centrale può essere sollecitato in modi diversi e generare, per esempio, appunto degli effetti analoghi. Puoi percepire della luce anche se non c'è luce intorno. Ecco, tu mi ricordavi prima, quando preparavamo l'intervista, un modo molto semplice, no? Per esempio, per vedere un po' di luce senza luce. Sì, un modo molto semplice, semplicemente applicare una leggera pressione con le dita sugli occhi. Esatto. E si ha questa sensazione di, appunto, di luce. Qualcosa di... In questo caso è una pressione meccanica che genera un effetto luminoso. Ecco Paola, però perché noi stiamo parlando di questi flash luminosi? La grande novità è che finalmente ne abbiamo trovato l'origine. E l'origine proviene dai resti di una stella che è esplosa nel 185 a.C. Che si trattasse all'origine di questi flash di raggi cosmici, questo lo si sapeva. Tu mi stai dicendo che però da dove venivano questi raggi cosmici sparsi un po' in tutta la galassia non si sapeva. Esattamente. Non si sapeva da dove provenissero. Okay. Esattamente. E quindi da dove arrivano? Arrivano da RCW86. E cosa diavolo è? Ha un nome bruttissimo, però è una stella che è stata osservata dagli astronomi cinesi nel 185 d.C. Si trova nella costellazione del Compasso, a circa 8.000 anni di luce di distanza. E quello che succede è il resto di una stella che è esplosa, quello che noi chiamiamo una supernova. Quindi in quegli anni si vide una grande luce nel 185 d.C. ed esplose la stella. Sì, in quegli anni si vide questa luce che durò addirittura mesi. Ed era questa esplosione molto energetica. E adesso quello che succede, la materia che è rimasta continua ad espandersi nello spazio e produce quello che noi chiamiamo un resto di supernova. Ho capito. Il meccanismo per cui questo è in grado di accelerare le particelle che si trovano nelle vicinanze è stato suggerito inizialmente da Enrico Fermi. Tempo fa, quindi. Riesce ad accelerare le particelle fino a 10-30 milioni di chilometri all'ora. Quindi veramente tanto. E noi, questi flash, come altri effetti, adesso sappiamo che sono originati da questo evento che ha quasi 2000 anni. Sì, esattamente. Adesso, ci sono in media un'esplosione di supernova ogni 100 anni, quindi non sono molto frequenti. Però dalla teoria si pensava che fossero sufficienti per spiegare la quantità di questi raggi cosmici galattici, perché ci sono anche dei raggi cosmici che provengono da più lontano, però questi qui vengono prodotti nella nostra Via Lattea. E finalmente gli astronomi sono riusciti a osservare, da un lato, la velocità della materia, e l'hanno osservata con il satellite Chandra, che osserva nei raggi X, e dall'altro hanno misurato la temperatura di quello che rimane. Sì. L'hanno osservato da terra con il Very Large Telescope dell'ESO. La temperatura è di circa 30 milioni di gradi, che appunto a noi sembra molto alta, in realtà è molto minore di quello che ci si aspettava. Sì. Ci si aspettava 0,5 milioni di gradi. Quindi la differenza tra la velocità di questa materia e la temperatura è proprio questa energia mancante che si è tradotta in raggi cosmici. Si è tradotta, sì, nell'accelerazione di particelle. È un'accelerazione molto maggiore dell'accelerazione che sarà possibile a Ginevra con l'LHC. Con il nuovo LHC. Bene Paolo, allora abbiamo capito che questi flash che già ci segnalavano la presenza dei raggi cosmici, adesso abbiamo capito con esattezza da dove arrivano. Grazie e buon lavoro. Ciao, alla prossima. Barbara Galavotti è a Londra, c'è una convention di giornalisti scientifici e noi appunto di Möbius abbiamo inviato una nostra redattrice. Sentiamo. Ciao Federico, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, sono a Londra e ci sono state ovviamente molte cose estremamente interessanti. La prima che vorrei raccontarvi è una mostra che c'è alla Royal Society, a cui siamo stati invitati come giornalisti scientifici. È una mostra fatta da diversi enti di ricerca che fanno vedere al pubblico, e c'è un sacco di pubblico, ragazzi, scuole, famiglie, nonostante siamo ormai in estate avanzata, fanno vedere al pubblico le loro tecnologie più avanzate. Tra le cose che mi è capitato di fare è una diagnosi di gravidanza a una mucca, cosa che è stata fatta totalmente virtualmente grazie a un sistema che è stato sviluppato dal Royal Veterinary College. Si tratta di un sistema totalmente virtuale, naturalmente, che ti consente di, grazie a un guanto, uno speciale guanto, di fare un'analisi perfettamente verosimile dello stato degli organi interni di una mucca. E in effetti loro hanno fatto una sperimentazione su studenti di veterinaria che sono stati addestrati con e senza questo strumento, e allora su 32 tentativi di diagnosi di gravidanza su mucca, gli studenti che erano stati addestrati con questa nuova tecnologia hanno individuato 18 gravidanze su 32, mentre coloro che non erano stati addestrati hanno individuato una sola gravidanza su 32. Strumenti simili sono stati già disposti per fare addestramento di studenti in veterinaria su gatti e su cavalli. Naturalmente è un prototipo e non è difficile immaginare che potrà essere forse applicato e sviluppato anche per scuole di medicina. Un altro aspetto divertente è una particolare robot che è stato messo a punto dall'Università di Bristol, che simula perfettamente i movimenti di una mascella o delle mascelle umane. Sembra incredibile, non ci pensiamo mai, ma non c'è allo stato attuale nessuno strumento che sia in grado di simulare molto bene i movimenti della mascella umana per poter testare i materiali che vengono utilizzati in ortodonzia, quindi materiali per le protesi, quanto durano, come reagiscono alla frizione, dopo quanto si consumano, e anche loro sono in grado di simulare l'ambiente parzialmente acido della saliva in modo da poter capire anche come reagiscono i materiali sintetici a questo ambiente parzialmente acido. Dal punto di vista della conferenza, naturalmente si è parlato dei temi scientifici che sono più scottanti in questo momento. Si è parlato di come fare a raccontare al pubblico il cambiamento climatico, come fare a raccontare al pubblico la ricerca sull'HIV, i temi che in questo momento sono considerati più sensibili. Si è anche parlato molto di una cosa che raramente raccontiamo ai nostri ascoltatori, cioè come faranno i giornalisti scientifici a selezionare le loro notizie. Anche il giornalismo scientifico, come tutte le altre forme di giornalismo, naturalmente è sempre sotto esame, e in particolare in questo periodo in cui i media tradizionali, giornali e televisioni, hanno spesso dei problemi finanziari e quindi sono in crisi. Persino le grandi testate come il New York Times danno segni di crisi. Ci si chiede come è possibile continuare a mantenere un giornalismo scientifico indipendente e accurato. Un fenomeno che è emerso molto recentemente è, per esempio, un sempre maggiore coinvolgimento degli uffici stampa e delle, per esempio, degli editori delle grandi riviste scientifiche nella diffusione delle notizie scientifiche. Questa cosa di per sé ovviamente è un bene, ma non è un bene se in qualche modo crea delle notizie precostituite o dà modo ai giornalisti di non fare le loro ricerche indipendenti. Questa è una cosa che preoccupa moltissimo la comunità, perché è chiaro che da parte del pubblico ci si aspetta e ci si deve sempre aspettare delle notizie di prima mano e non filtrate da delle strutture che sono comunque in qualche modo di parte. E infine sicuramente va segnalato che sempre più spesso in queste conferenze sono presenti paesi emergenti e molto aggressivi nel campo della ricerca scientifica, che puntano molto sulla ricerca scientifica. In particolare il Qatar ha portato avanti qui diverse iniziative. Possiamo dire che dopo l'oro nero del petrolio, probabilmente l'oro bianco dei prodotti mentali della ricerca è la prossima grande risorsa su cui questi paesi stanno investendo. Sono gli ultimi giochi prima della pausa estiva. Siamo arrivati al quiz. Forse molti non ci hanno fatto caso, ma i girasoli seguono davvero il sole che si sposta nel cielo durante il giorno? Com'è che fanno a fare questa cosa? Prima possibilità: i girasoli sono piante molto sensibili alla luce, molto più di ogni altra pianta, il che significa che ne hanno molto bisogno di questa luce. Questa necessità fa sì che l'orientamento verso la luce, presente in moltissime piante, qui sia decisamente rapido. Ci scriverete sensibili. Seconda possibilità: è vero che si girano verso il sole, ma non tutti, e questo può sfuggire. Bisogna infatti che il campo di girasoli sia orientato verso sud. In questo caso il sole, passando da est a ovest, genera il meccanismo di orientamento. Se il campo per esempio punta ad est, il girasole intromette una dose di luce molto elevata nelle prime ore del giorno, è soddisfatto e non si muove più. Ci scriverete rotazione. Terza e ultima possibilità è la crescita progressiva della pianta che genera il movimento. Il gambo del girasole al mattino produce molte più cellule nuove nella zona d'ovest e questo sposta il fiore verso est. Durante il giorno il processo si inverte. Ci scriverete crescita. Dove e come? Con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Seconda stella a destra di Andrea Bernagozzi e Davide Cenadelli, edizione Sironi. In collaborazione con IBS.it. Può essere che Elio e le storie tese, questo gruppo matto, molto bravo, c'entri con Darwin? Sì, può essere. Alla mostra su Darwin a Milano è andato in scena Consigli pratici per evoluzionisti spaesati, scritto e diretto da Emanuele Cocco. Chiara Albicocco vi propone ora alcuni brevi estratti dallo spettacolo, nel quale recita anche Rocco Tanica, e poi sentirete i nostri due in un'intervista nella quale ci danno le loro impressioni sull'evoluzionismo. Il bicentenario della nascita di Darwin offre svariate occasioni per entrare in contatto con i percorsi e le persone che hanno portato il celebre naturalista alla formulazione delle sue teorie, dal viaggio durato 5 anni sul famoso brigantino, al suo terribile mal di mare, fino ad inoltrarci dentro le vicende familiari con la moglie Emma. Tra le numerose iniziative in programma promosse un po' dappertutto, può anche capitare di imbattersi con una lezione sulla storia dell'evoluzionismo, un po' particolare. Se intitola Consigli pratici per evoluzionisti spaesati. Si tratta di una conferenza spettacolo scritta e diretta da Emanuele Cocco, storico della scienza, e interpretata da due relatori inusuali e straordinari, Elio e Rocco Tanica degli Elio e le storie tese. Nelle vesti di... ascoltiamoli. Allora, ci troviamo qui, una serata dedicata all'evoluzione, una lezione sull'evoluzione. Elio degli Elio e le storie tese in versione Darwin e Rocco Tanica in versione Wallace. Ma chi ve l'ha fatto fare? Beh, innanzitutto ce l'ha fatto fare Lele Cocco, che anche se non sembra è un professore. E poi mi sembra un bellissimo modo, diciamo, per imparare delle cose anche per noi stessi, insomma. Sì, per essere precisissimi, non abbiamo parlato dell'evoluzionismo, ma della storia dell'evoluzionismo, cioè come gli scienziati siano arrivati, insomma, a teorizzare quello che poi sembrerebbe essere vero, anche se, come ha giustamente sottolineato Rocco Tanica, noi siamo comunque creazionisti. Ecco, infatti voi avete concluso dicendo voi siete creazionisti, allora non avete capito niente della lezione. Non abbiamo capito, noi possiamo non essere d'accordo, anche se il testo di cui ci facciamo portatori è un testo di tutto rispetto. Noi, come giustamente sottolinea Elio, possiamo non essere d'accordo con Darwin, ma daremmo la vita per permettergli di esprimere le sue opinioni. Però diciamo che da due vecchi creazionisti monarchici come noi è da apprezzare lo sforzo in un'Italia repubblicana di parlare di evoluzionismo. Bene, sarebbe stato giusto dichiararlo all'inizio allora. Beh, no, scusa, perché se lo dici all'inizio già praticamente predisponi male il pubblico, no? No, anzi, è stato giusto fare quello che abbiamo fatto noi, cioè dire le cose per come erano state scritte da Lele Cocco e alla fine poi sottolineare, però... Siete stati convincenti, in effetti. Dunque, quali sono questi consigli per gli evoluzionisti spaesati? Ma alla fine non lo so dire neanche io bene, insomma, i consigli sono quelli di vivere bene, soprattutto in una città come questa in cui sembrerebbe impossibile fare delle cose, e invece oggi non sembrava neanche di essere a Milano, una nottata bellissima in un posto bellissimo che andrebbe utilizzato meglio forse. Con uno stormo di uccellini che sorvolavano sopra di noi. Esattamente, zanzare, pipistrelli, insomma, sembrava la serata giusta per fare all'amore e invece abbiamo solo letto delle cose. Una bella serata sicuramente, in cui l'iter narrativo interpretato da questi insoliti lettori ripercorre le tappe salienti dell'evoluzionismo. Si parte da Benoît Desmaizes, che riteneva che le specie terrestri e il genere umano si fossero generati da antiche creature marine. Si citano tutti i grandi pensatori che hanno contribuito alla definizione di evoluzionismo come la intendiamo oggi, Diderot, Buffon, Lamarck, fino ad arrivare a Darwin, nel momento cruciale della sua vita in cui decide di pubblicare L'origine delle specie. Spronato dalla lettera di Alfred Russel Wallace, nella quale appunto espone la formulazione di una teoria sull'evoluzione molto simile a quella di Darwin. Da lì il grande naturalista rivela al mondo la sua rivoluzionaria intuizione. Ecco, ascoltiamo uno dei punti salienti dello spettacolo guidati dalla voce di Emanuele Cocco. Quando Wallace intuì il funzionamento della selezione naturale, Darwin era già un convinto evoluzionista. I diari dimostrano che la sua conversione avvenne nella primavera del 1837. Ma il caso a volte è beffardo. Anni prima, infatti, Wallace aveva già scritto a Darwin, con ammirazione, per essere messo in contatto con il grande geologo Charles Lyell e con il celebre botanico Joseph Hooker, entrambi membri della Royal Society di Londra. Ora, avendo intuito i principi della selezione naturale, si rivolgeva di nuovo a Darwin e di nuovo con un sentimento ammirato per chiedergli un parere sull'articolo e consigli per pubblicarlo. Ma Darwin, al tempo, lavorava da 12 anni a un libro dedicato all'evoluzione, 12 lunghi anni in cui aveva atteso di raccogliere dati e dettagli a sufficienza per dimostrare proprio l'esistenza della selezione naturale. 12 anni in cui era rimasto in silenzio per timore di essere giudicato presuntuoso. La lettera di Wallace, dunque, lo gettava nello sgomento. 18 giugno 1858, Down Bromley, Kent, a Charles Lyell. Mio caro Lyell, alcuni anni fa mi raccomandasti di leggere un articolo di Wallace uscito negli annali di storia naturale che avevi trovato interessante, giudizio del quale, pensando potesse fargli piacere, riferì a Wallace. Oggi lui mi ha inviato un manoscritto chiedendomi di fartelo avere. A me sembra assolutamente degno di lettura. Le tue parole si sono avverate nel presagire che sarei stato anticipato. Mi dicesti questo quando ti spiegai rapidamente le mie vedute su come la selezione naturale dipenda dalla lotta per l'esistenza. Non ho mai visto una più esatta coincidenza. Se Wallace avesse ricevuto i miei appunti del 1848, non avrebbe potuto scrivere una sintesi migliore. Così tutta l'originalità delle mie ricerche svanisce. Spero apprezzerai gli appunti di Wallace e che io possa riferirgli del tuo parere. Mio caro Lyell, con sincerità, Charles Darwin. 25 giugno 1858, Down Bromley Kent, venerdì, da Darwin a Charles Lyell. Mio caro Lyell, sono veramente desolato di darti disturbo, occupato come sei per questioni meramente personali. Ti assicuro che non ho mai pensato che tu possa avere dato involontariamente informazioni sulle mie teorie scrivendo a Wallace, o che egli abbia mai usato indebitamente i contenuti della tua lettera. Non c'è niente negli appunti di Wallace che io non abbia già scritto in modo più completo nei miei appunti del 1844 eletti da Hooker già 12 anni fa. L'anno scorso ho anche scritto una breve sintesi di cui ho mandato copia ad Asa Gray negli Stati Uniti, e dunque posso dire con onestà e dimostrare anche che io non ho copiato nulla da Wallace. Sarei estremamente felice di pubblicare una sintesi di una dozzina di pagine riguardo le mie vedute generali sull'argomento, ma non riesco a convincermi che sarebbe possibile farlo onestamente. Dato che non avevo alcuna intenzione di pubblicare un articolo, posso farlo ora onestamente solo perché Wallace mi ha mandato le linee guida del suo pensiero? Potrei forse mandare a Wallace una copia della mia lettera ad Asa Gray per mostrargli che non ho rubato nulla dalle sue idee. Ho scritto: potresti mandare questa lettera e la tua risposta a Hooker, chiedendogli di inviare la sua anche a me, così che io possa avere l'opinione di due dei miei migliori e più vicini amici? Mio Dio amico, perdonami, questa è una stupida lettera influenzata da stupidi sentimenti. Pochi giorni dopo, Darwin riceveva la risposta di Hooker e gli scriveva in piena notte. 29 giugno 1858, giovedì notte. Mio caro Hooker, ho appena letto la tua lettera. Sono decisamente frustrato e non posso fare nulla se non inviare a Wallace un estratto della lettera inviata a Asa Gray, che però fornisce solo una parziale spiegazione del significato del cambiamento e non tocca la questione delle ragioni per cui credere che le specie cambiano. Suppongo che ormai sia troppo tardi. Sono molto preoccupato. Davvero, non dovrei fare caso a tutto ciò. Non dovrei perdere tanto tempo. È meschino che io mi preoccupi tanto della priorità. Furono Lyell e Hooker a ristabilire la priorità delle scoperte. Sebbene Wallace aveva già scritto il suo articolo, essi potevano testimoniare che Darwin aveva formulato prima di Wallace il nodo teorico della selezione naturale. Non restava dunque che risolvere la questione dando a entrambi pari riconoscimento per la scoperta. E ora non possiamo che concludere con gli spassionati consigli evolutivi degli Elio e le storie tese. Il consiglio va anche ai nostri conterranei, gli italiani, l'Italia terra di montagne, di pianure e di mare. Il consiglio è agli amici italiani che vivono in prossimità del mare di prendere spunto e cominciare a sviluppare branchie. E invece per quelli che vivono magari nelle zone di altura e di montagna, di cominciare a sviluppare artigli o altro genere di utensili. Cioè, sviluppate qualcosa, evolvetevi, cosa state lì sempre col solito corpo? Prendete spunto da quello che ha detto Darwin e evolvetevi. Questo è il miglior consiglio della serata. Esatto. E se posso permettermi, gli Elio e le storie tese sono sempre stati cari alla scienza e ai temi dell'energia, dell'ambiente, certo. Cioè buchi neri, cassonetto differenziato, silos. No, guarda, tu sfondi una porta aperta, perché la scienza è sempre stato un nostro pallino, quindi noi oggi non siamo certo qui a caso, non ci ha certo scelti a caso. L'Elecoco non è che poteva andare a prendere tipo i Subsonica, per dire, o i La Cruz. Cioè siamo i musicisti giusti al posto giusto, e sottolineerei che noi musicisti abbiamo letto, ma alle nostre spalle c'era un fior di musicista, cioè Puccio, che veramente sembrava uno e trino. Rocco, vuoi dire l'ultima cosa? Semplicemente questo: quando fate evoluzioni non limitatevi all'attività circense, cioè tipo capriole, pirulette o cose del genere, ma prendete esempio dai grandi che l'hanno spiegata e diffusa ben prima di noi. Vi segnalo anche che tra pochi giorni sarà disponibile una versione di tutto lo spettacolo, quella completa, con la partecipazione anche di Leo Gullotta insieme a Elio. Alla mostra su Darwin si troverà questo doppio DVD qui a Milano, però lo si troverà anche da altre parti, distribuito nel paese. Non sappiamo ancora dirvi come e quando, ve lo sapremo dire la prossima settimana. Beh, guardate, nella grande avventura scientifica rappresentata dalla vita e dal pensiero di Charles Darwin, le cose divertenti e singolari non mancano, e se egli e il suo gruppo si fossero trovati in quegli anni avrebbero avuto molto materiale su cui creare brani musicali e storie paradossali. Sul sito di Mebius abbiamo aperto una sezione dedicata al darwinismo e lì alcune di queste storie le trovate. Molte ruotano intorno al capitano Fitzroy, il capitano del brigantino Beagle che portò Darwin in giro per il mondo per 5 anni, e per 5 anni dormirono nella stessa cabina. Allora sulle navi non c'era certo spazio per molta privacy. Fitzroy aveva una specie di rapporto di amore-odio con Darwin, spesso litigavano, però Fitzroy lo apprezzava anche molto, e il capitano fu anche colpito da una forte crisi depressiva dopo alcuni mesi di viaggio, e ci fu, insomma, addirittura per qualche settimana si parlò di un ritorno immediato in Inghilterra. Così viene facile pensare come sarebbero andate le cose se quel viaggio non ci fosse stato. Però è giusto ricordare che Jeff Wallace, giovanissimo studioso, negli anni in cui Darwin era già avanti con gli anni, andò davvero molto vicino alle stesse conclusioni del grande naturalista. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il buco dell'ozono lo si scoprì nel 1986, se non ricordo male, e fu un evento molto particolare. Fu la prima volta che emerse la sensazione di un'aggressione al clima, all'atmosfera, da parte delle attività umane. Ne parliamo oggi, e ve ne parla Maurizio Melis, perché studiando i meccanismi che generano il buco dell'ozono, e adesso si sono capiti molto meglio, si è compreso molto altro, e sentiamo che cosa. C'è tutta una chimica poco nota che fino a pochi anni fa nemmeno si poteva esplorare perché non c'erano le tecnologie adatte. Si tratta della chimica dei nanoaggregati, che entra in gioco solo quando sono coinvolte poche molecole alla volta e che ha delle regole diverse dalla chimica tradizionale e più nota. Tuttavia i nanoaggregati sono presenti in diversi fenomeni naturali, tra cui per esempio la formazione del buco dell'ozono. Ed è infatti studiando un particolare aspetto ancora poco chiaro della cascata di eventi chimici che producono appunto il buco dell'ozono che è emersa una nuova modalità con cui le molecole possono interagire fra loro, in particolare a bassa temperatura. Lo studio che ha guadagnato la pubblicazione su Science è di Marco Masia e di un gruppo di ricercatori tedeschi dell'Università di Bochum. Marco Masia invece è dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia e dell'Università di Sassari. Buonasera Masia. Buonasera. Lei ha svolto, si è occupato, diciamo, della parte teorica di questo studio. Senta, il buco dell'ozono è un fenomeno noto anche a largo pubblico, è comunque uno dei più studiati dagli scienziati. Tuttavia, abbiamo detto, c'era un aspetto ancora poco compreso. Ci spiega di che cosa si tratta? Sì, dunque, fondamentalmente le reazioni del buco dell'ozono avvengono negli strati alti dell'atmosfera, dove le temperature sono molto basse. Mm-hmm. E una di queste reazioni è quella in cui una molecola di HCl si dissocia. Okay. Cioè si forma il Cl- e poi l'H+. Quindi l'HCl è noto anche come acido cloridrico, si usa anche in casa, no? Esatto. Ed è sì, una molecola fatta da un atomo di cloro e un atomo di idrogeno. Quando parliamo di dissociazione è una specie di divorzio, diciamo che questi due atomi si devono separare, se no il cloro non si interessa alle altre molecole che ci sono in giro nell'ambiente. Esatto. È così? Esatto. Ecco, prego. Quello che si voleva studiare era proprio la reazione di dissociazione della molecola per capire come si formasse poi il cloro, che è responsabile di una serie di eventi che porteranno poi alla distruzione dell'ozono. E perché questa, diciamo, dissociazione non si riusciva a spiegare nelle condizioni che ci sono nell'alta atmosfera? Il problema è che qualsiasi reazione chimica, perché possa avvenire, ha bisogno di energia. Generalmente mm-hmm. l'energia viene fornita dall'ambiente sotto forma di calore. Mm-hmm. Però dato che queste reazioni avvengono a temperature molto basse, tipo? Ma dunque, nella stratosfera siamo intorno ai meno 80, ecco. Okay. Quindi non era possibile spiegare come potesse avvenire questa mm-hmm. Reazione, secondo, diciamo, dei meccanismi classici conosciuti. E quindi qui arriviamo alla vostra scoperta. Esatto. Come avviene esatto. quindi questa reazione? Dunque, fondamentalmente si tratta di un processo di aggregazione. Le molecole nei strati alti dell'atmosfera sono lontane fra di loro, e quando parliamo di lontani in ogni caso parliamo sempre di miliardesimi di metro, ecco. Certo. Però per le molecole questo vuol dire essere anche lontano, e quando queste si avvicinano fra di loro c'è un'attrazione. Quindi immaginiamo due molecole che si avvicinano e formano quello che si chiama un dimero, un aggregato di due molecole. Okay. Dopodiché ce ne saranno altre intorno che verranno attratte da questo aggregato di due molecole, cioè quando si formerà un aggregato di tre, e così via. È come se le molecole cadessero una verso l'altra. Okay. E questo cadere l'una verso l'altra gli fa acquisire energia. Mm-hmm. Ecco, questa energia che viene acquisita viene poi utilizzata perché attivi la reazione chimica. Ecco, quindi quello che abbiamo visto noi è che il processo di aggregazione, e quindi in cui queste molecole cadono una verso l'altra, è sufficiente per fornire l'energia perché questa reazione possa avvenire. Ecco, c'è stata tutta una parte sperimentale che è stata svolta in Germania. Io direi anzi che siamo proprio in uno di quei casi in cui è la tecnologia che in qualche modo indirizza la ricerca di base, perché qui fino a pochi anni fa non era possibile studiare questi fenomeni, sì, fare degli esperimenti controllati. Ecco, ci spieghi un po' invece appunto come si è svolto questo esperimento. Come hai detto lì, si è messa a punto le nuove tecniche sperimentali che non esistevano sino ad ora, quindi un nuovo strumento. Questo strumento è abbastanza complesso, però l'idea è quella che vengono utilizzate delle nanogocce di elio, cioè delle gocce di elio superfluido a bassissima temperatura, vicino allo zero assoluto. Queste gocce intrappolano le molecole di acqua e HCl. Mm-hmm. E all'interno di queste gocce le molecole di acqua e HCl si aggregano fra di loro, quindi questo processo di aggregazione avviene all'interno di queste gocce. Cosa succede? Che poi all'interno dello strumento questa goccia passa attraverso vari rivelatori che permettono di sapere innanzitutto quante molecole sono state intrappolate dentro la goccia, mm-hmm, e poi qual è la struttura dell'aggregato che c'è dentro la goccia. Cioè come le molecole entrano in rapporto fra loro, perché assumono proprio delle configurazioni geometriche ben precise. Esatto, e questo è anche uno dei risultati che si sono visti, perché mm-hmm, ci si aspettava che le molecole assumessero molte configurazioni diverse, invece si è visto che quando ci sono quattro molecole d'acqua, che è il numero minimo perché avvenga la dissociazione della molecola di HCl, si trova una ed una sola configurazione. Sempre la stessa. Esatto. E questo è stato spiegato poi attraverso simulazioni al computer come un processo di aggregazione. Attraverso le simulazioni al computer si è potuto vedere che in qualsiasi modo diciamo le molecole si aggreghino, quindi cadano una verso l'altra, il risultato finale, cioè il prodotto finale, è sempre lo stesso. D'accordo, questo è un meccanismo abbastanza generale, cioè che vale anche per altre situazioni. In quali altre circostanze potrebbe essere in azione? Sì, ecco, probabilmente una ricaduta immediata potrebbe essere lo studio delle reazioni che vengono nello spazio interstellare. Quindi questo meccanismo potrebbe entrare in gioco, ad esempio, nella formazione delle molecole complesse che poi, portate dalle comete sulla Terra, hanno portato alla nascita della vita. Quindi sapere che esiste questo meccanismo potrebbe aiutarci a capire pure come queste molecole complesse si siano formate nello spazio interstellare, dove appunto le temperature sono così basse che difficilmente si può pensare ad altri meccanismi per la formazione di molecole, ecco. Grazie allora, Masia. Grazie a lei. Si scriveva con una penna d'oca nei casi migliori, si intingeva la punta nell'inchiostro e ecco appunto l'inchiostro. Un ricercatore italiano ha studiato le pagine scritte a penna da Galileo Galilei. Chiara Albicocco vi spiega perché l'ha fatto, che cosa ha scoperto e perché è stato premiato. Pier Andrea Mandò, questo è il suo nome ed è il vincitore del premio che la Società Europea di Fisica conferisce al ricercatore che si è maggiormente distinto nel campo della fisica nucleare applicata. Il suo merito è effettivamente notevole. Il professor Mandò, che è direttore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Firenze, ha applicato la tecnica dell'analisi con fasci di ioni. Ecco, sembra difficile, poi ci facciamo spiegare che cos'è, nel campo dei beni culturali e più precisamente l'ha utilizzata per analizzare gli inchiostri utilizzati da Galileo. Ma la sua ricerca non finisce qui. Questa sera il professor Mandò è qui con noi. Innanzitutto ci congratuliamo con lui. Complimenti professore e benvenuto a Mebius. La ringrazio e la saluto anch'io, buonasera. Ecco, pochi giorni fa è stato eletto miglior fisico europeo, possiamo dire così, un po' allargandoci. La sua ricerca vede l'applicazione di un'importante tecnica di fisica nucleare, che abbiamo detto chiamarsi l'analisi con fasci di ioni, su dei scritti di Galileo, di Leonardo e anche su alcuni quadri del Rinascimento. Ecco, ci spiega a noi profani che tipo di lavoro svolge lei lì a Firenze? Sì, diciamo, qui abbiamo un laboratorio che si chiama LABEC, Laboratorio Beni Culturali, dove c'è un acceleratore di particelle molto più piccolo di quelli di cui si parla quando per esempio si fa riferimento al CERN di Ginevra. Con questo acceleratore si possono fare molte cose di tipo applicativo e in particolare appunto applicare queste tecniche di analisi con fasci di ioni. Il principio è questo: l'acceleratore produce e porta ad alta energia degli ioni, per esempio protoni o particelle alfa, che vengono inviate su un bersaglio che è la cosa di cui si vuole conoscere la composizione. Quello che si riesce a dedurre con queste tecniche è la composizione dei materiali che costituiscono un qualcosa che si mette come bersaglio per un fascio di ioni. Quindi questo potrebbe essere uno scritto di Galileo, abbiamo detto, ma anche uno scritto di Leonardo. Potrebbe essere qualunque cosa, ma naturalmente nel campo dei beni culturali possono essere pigmenti di pitture, sì, leghe metalliche di statue di bronzo, inchiostri, tempere di miniature, vetri antichi, perché è importante conoscere la composizione dei materiali utilizzati per produrre le opere d'arte o opere di interesse storico per vari motivi. Primo, per conoscere le tecniche disponibili in antichità, per esempio i materiali che erano a disposizione in tempi antichi, e poi anche per il restauro, perché prima di fare il restauro di un'opera è importante sapere su che materiali si vanno a mettere, sì, le mani. Quindi diciamo c'è una buona motivazione, e il principio con cui funzionano è questo: l'interazione delle particelle del fascio che si inviano sul bersaglio, sì, che può essere appunto il quadro, l'inchiostro, eccetera, induce emissione di radiazione X, radiazione gamma, particelle secondarie, che hanno delle energie caratteristiche degli elementi che stanno emettendo. Quindi se io con strumenti ancora tipici della fisica nucleare, rivelatori di particelle, rivelatori di radiazione gamma, rivelatori di radiazione X, riesco a leggere le energie di questa radiazione, capisco chi l'ha emessa e quindi capisco quali sono gli elementi chimici presenti nel punto su cui ho inviato il fascio. E questo lo si riesce a fare in maniera completamente non distruttiva, non danneggiante, che è fondamentale, ecco, nel caso dei beni culturali, perché uno pensa fascio di particelle, bombardamento nucleare, tutte queste cose. Invece è completamente innocuo, non si lascia traccia, e lo si riesce a fare in maniera completa, cioè contemporaneamente si ha un'informazione su tutte le componenti, non occorre fare una misura per sapere se c'è calcio, una per sapere se c'è ferro, ma viene fuori tutto insieme in tempi molto brevi, in maniera quantitativa. Quindi ci sono un sacco di belle qualità di queste tecniche che in qualche modo abbiamo a Firenze, non io personalmente, ma il gruppo, ci tengo a dirlo, sì, che c'è certo un gruppo, ed è soprattutto di ragazzi, giovani, appassionati, bravissimi e purtroppo molti precari, ma insomma, ecco, questi giorni. Sì, però diciamo abbiamo messo su anche delle novità di metodologia, insomma penso sia per questo che poi alla fine è stato riconosciuto un merito a queste nostre specifiche attività. Certo. Senta, dalla comprensione appunto della composizione, poi è possibile risalire ad una data di quando è stato effettuato il dipinto o lo scritto, perché lei è riuscito a conferire un ordine cronologico a quelli che erano gli scritti di Galileo, in questo modo a ordinare anche un po' quelle che erano le idee dello scienziato. Sì, diciamo in alcune situazioni questo può avvenire in maniera indiretta, non si tratta di datazioni dirette come sarebbero quelle per esempio che si fanno con il carbonio 14, che pure noi facciamo nel nostro laboratorio, ma in questo caso la datazione è basata su un discorso indiretto, e cioè sul confronto di quello che si trova come materiali con quello che si sa essere stato utilizzato in certi periodi o in altri. Per esempio lei citava le analisi che avevamo fatto sugli inchiostri dei manoscritti, sì, galileiani. In quel caso erano appunti manoscritti di Galileo non datati, ma molto importanti perché testimoniavano l'evoluzione delle sue idee nel corso della sua vita. e non erano, però non c'era scritto sopra la data in cui lui, erano appunti che si prendeva per sé lui, e lì abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo confrontato la composizione dell'inchiostro che rilevavamo in questi documenti con quella di altri documenti sempre di suo pugno, ma dove c'era la data, per esempio delle lettere. Sì. E siccome ai tempi di Galileo ovviamente l'inchiostro non era un qualcosa di industriale, quindi sempre uguale, ma ogni volta che veniva rifatto, ricomprato, insomma, ogni partita di inchiostro aveva una composizione diversa. Un po' diversa, e questo un po' è la chiave perché poi si possa, facendo un confronto, dire, naturalmente non come unico elemento di diagnosi, ma messo insieme anche ad altri ragionamenti, a un'analisi del testo, e dare un grosso contributo, in alcuni casi noi questo effettivamente lo abbiamo dato, a risolvere una controversia, per esempio, fra due possibili ipotesi di collocazione cronologica di alcuni documenti. Ecco, ora ci è chiara l'importanza, insomma, della vostra scoperta. Questo è un esempio. Certo. E senta, scusi la domanda un po' ingenua, ma come si sente uno scienziato come lei che tocca con mano gli scritti e li ordina di un altro uomo di scienza così importante che veramente ha cambiato la storia con le sue scoperte? È abbastanza emozionante. In generale, avere sotto gli occhi e fra le mani gli scritti di Galileo per noi è come un po', dicevo a qualcun altro, andare a rimettere in ordine le lettere del nonno, insomma, perché uno si sente un po' appunto nipote o pronipote, naturalmente con tutti gli ordini di grandezza in basso, di valore naturalmente, ma però è emozionante pensare che proprio lui aveva scritto quelle cose, e è ancora più così lusinghiero se uno riesce a dare delle risposte a dei problemi di storia della scienza, in questo caso di una certa importanza. E la stessa cosa vale quando capitano sotto mano, per esempio, dei quadri di grandi pittori, come ci è successo nel caso di Leonardo, di Antonello da Messina. È molto emozionante perché uno li vede con un occhio diverso da quello con cui si guardano in museo, insomma è un altro tipo di esperienza molto molto importante, effettivamente emozionante. Va bene, professor Mandò, allora davvero complimenti per questo premio, e mi raccomando, continuate così, cercate di tenere duro con i ricercatori giovani e precari. Questo è il mio massimo impegno in questo momento, cercare di assicurare la continuità di queste attività tramite un po' di prospettive per questi ragazzi bravissimi, e non tutti i quali hanno ancora una sistemazione. Va bene, grazie professore e buona serata. Grazie a lei, buona serata. Siamo alla soluzione del quiz: perché il girasole segue il sole che si muove durante il giorno. Potrà sembrare sorprendente, ma la risposta giusta è la terza. Il girasole segue il movimento del sole perché nel suo gambo c'è una crescita quotidiana e differenziata di cellule. Se ci sono più cellule ad ovest che a est, abbiamo come una pressione meccanica che fa ruotare il fiore verso l'est, ovvero verso l'alba, diciamo così. Andando verso sera, avviene il contrario, e in particolare è proprio durante la notte che il processo di crescita si manifesta ad ovest, il che consente che il fiore sia pronto, rivolto ad est, fin dall'alba. Non c'è quindi nessuna ragione legata a una sensibilità verso la luce, come sostenevano le altre due ingannevoli risposte. Perché fa così il girasole, ovvero come si è determinato questo comportamento dal punto di vista evolutivo, nessuno lo sa per il momento, qualche idea, ma niente di preciso. Qui, Salvatore Filippone, dove siamo? Siamo a Norimberga. Durante una partita di calcio. Questi sono i tifosi del Norimberga che stanno esultando. Cori ritmici. E qui, Domenico Ferrara, dove siamo? Qui sono sempre gli stessi tifosi del Norimberga, ma siamo durante una partita di calcio allo stadio di Amburgo. In trasferta, quindi. Allora, Salvatore Filippone, Domenico Ferrara, due studenti del corso, del master in giornalismo, il master post universitario allo IUM di Milano, un master molto tosto, lavorate tantissimo con altri colleghi vostri, sentiremo dei servizi nelle prossime settimane. Incominciamo da voi, su che cosa avete lavorato allora? Allora, noi ci siamo concentrati, abbiamo seguito, diciamo, un'analisi effettuata dal Politecnico di Milano, un'analisi importante in quanto è l'unica che viene realizzata in Italia, è praticamente si basa sull'analisi, sul monitoraggio continuo 24 ore su 24 dello stadio di San Siro. Dello stadio di San Siro, che è notoriamente uno stadio di calcio, però è anche uno stadio dove si tengono concerti e esatto. Anzi, sono i concerti che spesso e volentieri possono creare più problemi. Diciamo subito che abbiamo sentito queste voci, ma poi quando vorrete andare al nostro sito vedrete che queste voci sono collegate a un video, no? In questo video, Filippone, cosa si vede? Ma si vede uno stadio che flette in base al che oscilla in base ai salti dei tifosi del Norimberga. Oscilla anche di 10 centimetri. Sì, sì, è incredibile. Va bene, voi avete intervistato il responsabile della ricerca. Esatto, il dottor Cigada. Del Politecnico. Esatto. Abbiamo chiesto in che cosa consiste appunto questo sistema di monitoraggio effettuato nello stadio di San Siro. Sentiamo. Allora, la struttura è arrovata da una rete di sensori che sono i più diversi. Questi sensori inviano i loro dati a dei sistemi di raccolta locali che sono tutti interconnessi tra di loro in una rete, e questa rete ha una comunicazione verso l'esterno. L'idea è quella di raccogliere questi dati con continuità 24 ore al giorno, tutti i giorni, dopodiché bisogna predisporre dei sistemi di analisi automatica di questi dati per scartare le situazioni che sono ritenute di assolutamente prive di interesse, e sui dati che rimangono invece si fanno poi delle valutazioni che sono solitamente di tipo statistico. Si gioca molto sul fatto di avere la possibilità di fare delle medie, e dopodiché ci sono tecniche consolidate e altre che sono al confine con il mondo della ricerca e che vengono sfruttate per l'appunto per capire come la struttura si sta comportando, cosa sta succedendo. Da quanto tempo è attivo sullo stadio di San Siro? È attivo in una fase prototipale dal 2003 come monitoraggio continuativo da un paio d'anni. Quanti sensori ci sono e in che percentuale è monitorata la struttura? Allora, attualmente è un quarto della struttura, ci sono sensori che misurano diverse grandezze. In questo momento abbiamo sia sensori che misurano le accelerazioni, sensori che misurano le inclinazioni. A breve avremo sensori che misurano lo stato di corrosione. L'idea è quella che il sistema sia modulare e sia possibile aggiungere nuovi sensori. Ci spieghi un po' anche il fenomeno della risonanza, quello che poi è alla base anche della ricerca? Ma diciamo, sono delle tecniche abbastanza note, ma che si vanno raffinando, per cui si cerca di conoscere come sta evolvendo il comportamento di una struttura attraverso lo studio delle microvibrazioni che possono essere legate a questioni di tipo ambientale o a sollecitazioni più robuste dovute per esempio alla presenza del pubblico. Devo dire che per valutare lo stato di salute della struttura si privilegiano le microvibrazioni che si hanno quindi in condizioni controllate quando lo stadio è vuoto. Quindi se dovessero esserci delle evoluzioni anomale o non note, si va ad intervenire a guardare più nel dettaglio che cosa sta succedendo in quella particolare zona. Fino adesso che risultati avete riscontrato dal monitoraggio? Ma sono risultati che, diciamo, non avendo ad oggi, per quello che noi abbiamo visto, rilevato alcunché di anomalo, ci permettono di andare avanti a fare della ricerca. Cioè dire che l'aspetto positivo è che noi abbiamo un grosso stimolo, una grossa palestra, perché una struttura del genere permette di studiare nuove tecniche sia di valutazione dello stato delle strutture sia di per nuove metodi di misura, e quindi più che altro ci stiamo esercitando molto nel provare nuove tecnologie. Ma attualmente la salute dello stadio di San Siro è buona oppure c'è del pericolo per quanto riguarda nei concerti? Allora, si tratta sempre di quello che uno ha possibilità di vedere. Ovviamente se ci fossero delle situazioni di pericolo, queste vengono escluse a priori, cioè l'intervento che viene fatto lì in questo momento mira soprattutto a razionalizzare gli interventi di manutenzione. Cioè è ovvio che se ci fosse del pericolo nessuno andrebbe in una struttura ritenuta pericolosa. E del resto abbiamo visto recentemente che col terremoto in Abruzzo, se una struttura è pericolosa spesso uno se ne accorge dopo. Quindi l'intervento che a noi è stato chiesto è stato per valutare come si sta comportando la struttura e come rendere intelligenti gli interventi di manutenzione. Quindi se io so come una struttura sta vibrando in tutte le sue zone per tutto l'anno, riesco a fare degli interventi più puntuali. Ma questo tipo di monitoraggio è stato richiesto da parte del comune a voi del Politecnico? È un monitoraggio che è stato richiesto da parte del comune perché, come sempre io dico, uno ha un'automobile e sull'automobile fa manutenzione. Se l'automobile è un'automobile sportiva richiede più manutenzione. Lo stesso con le case, uno fa la manutenzione nella propria casa, se la propria casa è una struttura come lo stadio che vede tanti eventi importanti e il passaggio di tante persone, è indispensabile fare più monitoraggio. Ma avete avuto richiesta anche da altre parti in Italia per fare un monitoraggio di questo tipo su altri stadi? In questo momento no, però siccome l'evoluzione del costo degli strumenti di misura dei sistemi di acquisizione dati rende questa cosa sempre più alla portata di tutti, devo dire che in giro per il mondo ci sono alcuni stadi monitorati. Leggevo giusto ieri quello di Atene ha un sistema di monitoraggio, Wembley ha avuto un sistema di monitoraggio per parecchi mesi, lo stadio di Manchester ha un sistema di monitoraggio, però si tratta di tecniche abbastanza standard che vengono ormai applicate per i ponti, cioè so che per esempio i viadotti dell'alta velocità hanno un sistema di monitoraggio al loro interno, quindi è una cosa che va sempre più diffondendosi grazie anche alle enormi possibilità che questi dati offrono. Salvatore Filippone, Domenico Ferrara, grazie e buon lavoro. Grazie. Il frutto del mango, la mente di Leonardo e un piatto di cucina artificiale. Non voglio dirvi che vi sia una ricerca scientifica che è riuscita a mettere insieme questi tre temi, però invece trattasi di tre notizie diverse che ora vi racconta Barbara Gallavotti. C'è ancora tempo fino al 30 agosto per visitare al Museo Nazionale di Palazzo Venezia, a Roma, la bellissima mostra La mente di Leonardo. Curata da Paolo Galluzzi, direttore del Museo di Storia della Scienza di Firenze, la mostra è stata già allestita in diverse sedi, fra le quali la Galleria degli Uffizi a Firenze e il Museo Nazionale di Tokyo. Proprio in Giappone ha avuto un numero di visitatori record, 900.000 in 3 mesi. Non è una tradizionale mostra d'arte. Quello che il visitatore compie è un affascinante viaggio alla scoperta del modo di pensare del grande genio del Rinascimento. Quindi vedrete ricostruzioni delle macchine di Leonardo e delle sue opere, oltre a brevi filmati che consentono di capire i suoi studi sulla luce, sulle proporzioni, sulla dinamica dei corpi e sul loro invecchiare, e ancora sul comportamento dei fluidi e sulle regole della geometria. E poi come tutte queste conoscenze, integrandosi, abbiano potuto portare alle straordinarie opere d'arte leonardesche. Forse nessun altro artista al mondo più di Leonardo ci permette di comprendere come la creatività più straordinaria nasca dall'insaziabile curiosità di capire come funzionano le cose della natura, unita alla capacità di utilizzare ciò che si è imparato per inventare soluzioni innovative. Il futuro del mango è incerto. Il dolcissimo frutto che annuncia l'arrivo dell'estate in India, come pure per le strade dell'Egitto, è a rischio proprio ora che anche per chi vive alle nostre latitudini è diventato possibile gustarlo. A dare l'allarme sono stati i produttori indiani, che nel 2007 hanno perso 3 milioni di tonnellate di manghi e le cose non sono molto migliorate l'anno successivo. Il problema è che i manghi, per maturare e raggiungere la necessaria dolcezza, hanno bisogno di temperature elevate, mentre fra gli effetti dei cambiamenti climatici in India vi sono stati alcuni inverni particolarmente freddi. La notizia viene da Biodiversity International, l'organizzazione internazionale particolarmente attenta alla riscoperta e salvaguardia delle colture tradizionali. Sul fronte opposto della ricerca sul cibo c'è la gastronomia molecolare. Mebius ne ha parlato molte volte, è quella disciplina che studia i cibi dal punto di vista chimico, cercando di scoprire il perché delle loro qualità e come si può intervenire sui sistemi di preparazione in modo da rendere i piatti ancora più gustosi e stimolanti per i nostri sensi. Ebbene, verso fine aprile, presso il lussuosissimo albergo Mandarin Oriental a Hong Kong, il gastronomo molecolare Hervé Thys e lo chef Pierre Gagneret hanno prodotto qualcosa di veramente inedito. Il primo cibo totalmente sintetico, composto cioè da molecole create in laboratorio, non ricavate da organismi viventi, animali o vegetali. Dunque, il piatto in questione era composto da perle gelatinose che sapevano abbastanza di mela, unite a una granita dal gusto più o meno di limone e con sottili sfogli al sapore di caramello a separare le perle dalla granita. Ovviamente, per preparare questa creazione non sono state usate né mele, né limoni, né caramello. Gli ingredienti, se volete prenderne nota, erano invece acido ascorbico, cioè vitamina C, glucosio, acido citrico e pochi grammi di una molecola chiamata maltitolo. Si è chiuso il concorso Dite la vostra frase al posto di quanto disse Neil Armstrong, il concorso per il quarantennale dello sbarco sulla Luna. Quella frase di Armstrong la conosciamo tutti, ne abbiamo ricevute tante di frasi da ascoltatori, ascoltatrici, le abbiamo spedite al settimanale inglese quasi tutte, dovevamo fare una selezione, ma insomma le abbiamo spedite quasi tutte al settimanale inglese New Scientist, e loro l'idea del concorso, e Möbius ha chiesto alla rivista di proporlo qui da noi e loro sono rimasti molto contenti. Il 18 luglio sapremo il vincitore, si vince un pezzetto di Luna. Chi ci sente per la prima volta dice: ma questi sono pazzi, non è vero, andate al nostro sito www.moebiusonline.eu e vedrete che questo pezzetto di Luna è vero, però lo mettono in premio loro. Anche noi, su tutte le frasi che sono arrivate, mettiamo un premio. Naturalmente non è un pezzetto di Luna, sarà un DVD, bisogna essere amanti della fantascienza, ma forse anche dell'orrido. È Destination Moon, Destinazione Luna, un film di fantascienza del 1953 che è veramente esilarante, un film serio, però c'è lo sbarco sulla Luna più paradossale che possa essere immaginato. Non mandateci altre frasi, quelle che sono arrivate vanno bene, io non vi cito nulla di quelle che sono già arrivate perché potremmo in questo modo esprimere una preferenza anche noi dopo il 18 e esprimeremo un vincitore o una vincitrice. Bene, questo era tutto per il concorso ed è anche tutto per la nostra puntata. Möbius si chiude qui, buona serata a tutti e buona settimana, ci sentiamo fra 7 giorni. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.